quando l'uomo è poesia. Non c'è guerra che sia sotto gli alberi di melo, senza velo, senza velo. Quando luce sposa l'ombra, come un fiore pace regna, come un fiore sul tuo cuore, una rosa, rosa di mare. Quando tu mi sei vicino, il paradiso non è lontano, una pianta di riso muore, senza acqua, senza amore. Quando tu mi sei vicino, il paradiso non è lontano. Siamo spine senza rosa, senza amore, senza amore. In te vive il mondo intero, in te la strada di ogni uomo. In tanti modi ci si può arrivare, tante quante sono le onde del mare. Scusa ora, devo andare, vado lì dove non puoi venire. Ti ho lasciato nel tuo cuore una rosa, rosa di mare. Quando tu mi sei vicino, il paradiso non è lontano. Una pianta di riso muore, senza acqua, senza amore. Quando tu mi sei vicino, il paradiso non è lontano. Siamo spine senza rosa, senza amore, senza amore.